D. Ascolta e completa il testo. Nella parte centrale della penisola troviamo vari parchi nazionali. Il parco dell'arcipelago toscano comprende le isole d'Elba, Capraia, Del Giglio, Montecristo, Gorgona, Giannutri e Pianosa. L'Elba è l'isola più ricca di varietà biologica di quest'arcipelago. La sua vegetazione è molto diversificata e la sua flora comprende delle specie locali, come la viola dell'Elba e il fiordaliso di Montecapanne. La fauna è caratterizzata da una grande quantità di uccelli, tanto che in periodo di migrazione sono presenti sull'isola gran parte delle specie europee. Ci si trovano anche mufloni, cinghiali e martore. La Capraia ha una vegetazione meno varia di quella dell'Elba, ma gode di un ambiente più libero da insediamenti. Qui nidificano i gabbiani reali. Le isole del Giglio e di Montecristo sono circondate da acque trasparenti e limpide, ricche di pesci. L'ambiente naturale è molto ben conservato sull'isola Gorgona, con numerosi alberi d'alto fusto e con fondali ricchi di pesci protetti dal divieto di pesca. Sull'isola nidificano il gabbiano reale e il raro gabbiano corso.